Sono le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. In crescita la disoccupazione nei paesi dell'euro, in settembre al 9,7%, si tratta del tasso più elevato degli ultimi 10 anni. Fini decide lo stop dei lavori alla Camera perché manca la copertura finanziaria delle leggi. Bonaiuti, Fini ha fatto bene. L'influenza è meno aggressiva di quella stagionale, assicura il viceministro Fazio, sì al vaccino per 350 atleti olimpici. Arrivano nuovi alfabeti per gli indirizzi internet dal prossimo anno, www anche in caratteri cinesi e cirillici. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano dunque la pagina economica. Ancora in crescita il tasso di disoccupazione nei paesi dell'area dell'euro. Da Bruxelles, Sergio Nava. Sì, buongiorno. È un dato che fa veramente preoccupare, questo diffuso oggi da Eurostat. Parliamo di un 9,7% di disoccupati nell'eurozona, il tasso più elevato dal gennaio del 1999, quindi da oltre 10 anni. Nell'Unione Europea a 27 il tasso è stato del 9,2%. Tradotto in termini più puramente numerici, ci sono oltre 15 milioni di disoccupati nell'eurozona, 15.324.000 per essere precisi, e oltre 22 milioni nell'Europa a 27, e l'aumento è quello che fa soprattutto impressione: 5 milioni di disoccupati in più rispetto a un anno fa in Europa, 3 milioni in più se restringiamo la nostra visuale solo all'area euro. Tra gli Stati membri il tasso più basso di disoccupazione è quello registrato nei Paesi Bassi, 3,6%, quello più alto in Lettonia con il 19,7%, 1 su 5. Parliamo dell'Italia. L'Italia fortunatamente è nella parte bassa della classifica per quanto riguarda il dato generale. Sulla base dei dati del secondo trimestre, il nostro paese ha una media di disoccupati pari al 7,4%, inferiore di 2 punti rispetto alla media, ma il dato veramente preoccupante che riguarda il nostro paese è quello relativo alla disoccupazione tra gli under 25. In Italia a luglio era senza lavoro 1 su 4 di loro, quasi 5 punti sopra la media europea. La conferma che la crisi in Italia sta colpendo dal punto di vista lavorativo soprattutto le nuove generazioni, un dato che sicuramente non può non far riflettere. Infine, un piccolo aggiornamento anche dal Consiglio europeo in corso a Bruxelles: i lavori sono stati sospesi, la conferenza stampa ritardata, si continua a trattare sui finanziamenti al clima. Da Bruxelles è tutto. Grazie a Sergio Nava dunque da Bruxelles. E nel pomeriggio a Capri il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. 1 a 2 giorni di lavori per i giovani imprenditori di Confindustria, dedicata al Mediterraneo e alle sue potenzialità di sviluppo per uno spazio comune di crescita economica e sociale. La necessità dunque di un progetto globale, un modello di integrazione sostenibile per far dialogare politiche di sviluppo, cooperazione ed opportunità di mercato. Di tutto questo parleranno nella giornata di apertura, tra gli altri, la presidente dei giovani industriali Federica Guidi, il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani ed ancora l'ex leader del PD Beltroni. In chiusura l'intervento tra accoglienza ed immigrazione sostenibile del ministro dell'interno Maroni. Domani il dibattito si allargherà inevitabilmente all'attualità macroeconomica con la presenza del ministro dell'economia Tremonti. Il percorso verso il taglio dell'IRAP, che tante polemiche ha suscitato nella stessa maggioranza, con la richiesta di Confindustria e della presidente Emma Marcegaglia fare presto, intervenire in tempi rapidi verso le PMI, le più colpite secondo Viele dell'astronomia dalla crisi economica. Sviluppo del mezzogiorno e posto fisso gli altri temi che animeranno la platea del 24esimo appuntamento dei giovani imprenditori. Riforme e ruolo della politica per il rilancio del sistema Italia nell'intervento del presidente della Camera Fini. Il nostro paese nella costruzione di un modello di sviluppo nella tavola rotonda che vedrà coinvolti tra gli altri la DD Enel Conti, Bassanini, Cassa Depositi e Prestiti, Quadrio Curzio della Cattolica di Milano. Vincenzo Miglietta, GR24, il sole 24 ore, Capri. La CISL intanto è pronta a proclamare uno sciopero generale se il governo continua a sostenere solo le imprese per superare la crisi economica, anche con un eventuale taglio dell'IRAP e non le categorie più in difficoltà. Lo ha annunciato il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni. Se si continua a caricare sul lavoratore e pensionati, perché è vero, i lavoratori e pensionati pagano l'80% della bolletta Italia, l'80%, poi si dice che l'imprenditore si alza più mattino, magari fa i sacrifici, d'accordo, ma è il lavoratore che fa, non fa sacrifici, l'80% della bolletta Italia la pagano i lavoratori, quindi quello che sta succedendo in questi giorni, lo ripeto, a me non piace. Le parti sociali parlano, imprese e lavoratori, i lavoratori, alcuni parlano, sindacati, lavoratori e imprese, e la politica quasi in generale dice riduciamo le tasse di impresa. A me questo non piace. Lavori alla Camera fermi fino al 9 novembre, tanto non c'è copertura finanziaria per le leggi in discussione. Fa discutere la decisione del presidente della Camera Gianfranco Fini ed è di questo che parliamo in diretta con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Non si vedono deputati qui a Montecitorio, i lavori sono sospesi, l'aula ha davvero chiuso i battenti fino al 9 novembre, una decisione come si sa fortemente sostenuta dal Presidente della Camera Fini per denunciare la mancanza di copertura finanziaria che impedirebbe appunto di legiferare. In sostanza questo è il senso della denuncia, il governo chiudendo i rubinetti impedirebbe al Parlamento di lavorare. Oggi il Presidente della Camera da Torino insiste dicendo che la politica economica del governo deve essere condivisa con il Parlamento. Ma dall'esecutivo risponde il portavoce di Berlusconi, Bonaiuti, bene ha fatto Fini nei periodi della finanziaria, dice può capitare proprio perché si cercano le coperture necessarie. Insomma, il governo sdrammatizza, decisione invece contestata dall'opposizione, gridano ad un vero e proprio scandalo i deputati dell'Italia dei Valori e sulla motivazione di una mancanza di copertura finanziaria il vice capogruppo Antonio Borghesi commenta così, sentiamo. Indubbiamente quella è anche una motivazione che impedisce alla Camera di lavorare, ma nel caso specifico se si voleva lavorare per 3 giorni o per 2 giorni e mezzo c'era tutta la possibilità di farlo anche la prossima settimana. E i deputati dell'Italia dei Valori devolveranno la loro diaria di questi 10 giorni alla Caritas. E da Roma è tutta, voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Ora invece il caso Marrazzo, il punto di Andrea Viali. Nonostante gli interrogatori e gli arresti, sono ancora molti gli aspetti da chiarire nell'inchiesta sul ricatto ai danni di Piero Marrazzo. Per questo gli inquirenti hanno intenzione di sentire di nuovo l'ex governatore del Lazio nei prossimi giorni. Emergono intanto nuovi particolari sul video che lo ritrae in compagnia del transessuale Natalì, un filmato girato il 3 luglio ma che già pochi giorni dopo, l'11 luglio, i carabinieri arrestati avrebbero iniziato a proporre a vari giornali. Quella messa in vendita sarebbe stata una versione più corta del video, il cui originale durerebbe circa 13 minuti. Ma a far discutere oggi sono anche le indiscrezioni circolate in questi giorni su frequentazioni fra politici e transessuali. Una di queste riguarderebbe Maurizio Gasparri per un suo presunto coinvolgimento in una retata anti-Viados avvenuta a Roma nel 96. Il capogruppo del PDL al Senato nega tutto, contro di me solo fango, dice oggi in un'intervista nella quale annuncia querele per mettere fine a quello che definisce un vociare squallido e vergognoso. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le foto fanno davvero impressione e sicuramente sollevano qualche dubbio. Parliamo delle foto di Stefano Cucchi, il giovane morto dopo l'arresto per droga. Maria Chiara Grandis. Buongiorno, dopo la diffusione delle fotografie e le richieste di verità della famiglia Cucchi per la morte del figlio Stefano nel carcere di Regina Coeli, pochi giorni dopo l'arresto per droga, il caso diventa politico. Per Marina Sereni, capogruppo del PD, vice capogruppo del PD alla Camera, la morte del 31enne necessita di spiegazioni per tutti gli italiani che hanno bisogno di avere fiducia nelle forze dell'ordine. Chiede verità anche la Fondazione Fare Futuro del Presidente della Camera Fini. Sul sito web si scrive che uno Stato democratico non si nasconde dietro la reticenza degli apparati burocratici. D'altro canto il Ministro della Difesa La Russa si dice certo del comportamento corretto dei carabinieri che arrestarono Cucchi il 15 ottobre e che morì in carcere dopo una caduta accidentale dal ministro della giustizia Angelino Alfano sulla base dei referti medici. Del caso Cucchi si sta discutendo questa mattina anche al convegno sul sovraffollamento carcerario alla Camera dei Deputati, dove sono riuniti tutti i vertici delle associazioni del volontariato. I detenuti sono persone, ribadiscono, ponendosi al piano carceri del governo a favore di misure alternative. Anche su questo tema chiederanno un incontro a breve con il ministro della giustizia. E da Roma è tutto. Grazie mille a Maria Chiara Grandi. Andiamo invece all'estero, a cominciare dal tira e molla dell'Iran sul nucleare. A dispetto di quanto affermato ieri dal suo presidente Mahmoud Ahmadinejad, l'Iran ha di fatto respinto la proposta di accordo presentata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AEA. Secondo il New York Times, nella risposta ricapitata a Vienna, Teheran fa capire di essere disposto al trasferimento del suo uranio all'estero soltanto se gli verrà contemporaneamente messa a disposizione una uguale quantità di uranio già arricchito. In caso contrario, il trasferimento avverrà a rate e in piccole dosi. Risposta già rimandata al mittente dal direttore dell'AEA Elberadei, perché consente al regime degli Ayatollah di mantenere sostanzialmente invariate le sue scorte. Intanto, ieri a Teheran ha destato grande scalpore il gesto di un giovane iraniano. In un incontro pubblico trasmesso in diretta TV, il giovane, dopo aver accusato la TV di stato di parzialità, rivolgendosi direttamente alla guida suprema Ali Khamenei, gli ha detto: «Non trovo giusto che nel nostro paese siano bandite le critiche al tuo operato». Hadith Tahali, GR24, Sole 24 Ore. Sarà processato l'ex presidente francese Jacques Chirac per un presunto giro di appalti truccati a Parigi. 76 anni, Chirac è accusato di sottrazione di denaro pubblico e abuso di potere. I capi di imputazione si riferiscono al periodo in cui fu sindaco della capitale francese fra l'83 e il 95. In occasione del 90° anniversario della nascita, la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Giuseppe Verdi di Milano dedicano questa settimana il ricordo di Paolo Grassi, che fu anima del Piccolo Teatro di Milano, sovrintendente alla Scala e presidente della RAI. Adriana Fracchia ha intervistato la figlia, Francesca Grassi, che lo ricorda così. La figura di papà in questi giorni è assolutamente venuta fuori in varie sfaccettature, come uomo anche privato, come uomo di teatro, di cultura, etica, politica e cultura sono state le tre parole che noi abbiamo scelto e messo nel manifesto, perché era un uomo etico. La sua etica, che è quella cosa che oggi manca assolutamente. La conoscenza di Strehler, quanto ha arricchito il suo mondo? Tantissimo. Giorgio aveva un carattere terribile, molto litigioso, molto petulante, però era un uomo geniale. Si sono trovate due persone con un equilibrio perfetto, due persone veramente incomparabilmente compenetrabili, insomma, con un equilibrio come quello di Nina Vinci, che se non ci fosse stata loro non avrebbero mai potuto coesistere, perché lei era proprio l'ago della bilancia. Questo trio è stata una grande magia, difficilmente si potrà ripetere. Influenza A, la preoccupazione del mondo dello sport e non solo, gli atleti olimpici verranno vaccinati, parola di Fazio, che sentiremo fra pochissimo. Nella prima parte del GR abbiamo parlato della crescita della disoccupazione nei paesi dell'euro. In settembre è stata del 9,7%, si tratta del tasso più elevato degli ultimi 10 anni. Tanti dubbi sulla morte del giovane in carcere per droga, ma la russa difende i carabinieri, sono sicuro, dice, della loro correttezza. Fini, che ha deciso lo stop dei lavori alla Camera perché manca la copertura finanziaria delle leggi. Bonaiuti, che gli dà manforte, dice: ha fatto bene. A Roma i vertici dello sport italiano stanno incontrando il vice ministro della salute Fazio. Al centro del colloquio le misure contro l'influenza A. Ci colleghiamo in diretta con il ministero del welfare, la linea va a Savino Gallo. Sì, buongiorno. Ancora una volta il vice ministro Fazio ha voluto rassicurare tutti allontanando la parola emergenza. L'influenza A H1N1, ha ribadito, è molto meno aggressiva dell'influenza stagionale, che l'anno scorso faceva registrare un indice di mortalità dello 0,2 per mille. L'indice della suina invece sarebbe solo dello 0,02 per mille, quindi esattamente 10 volte inferiore. Ma sentiamo le parole del vice ministro Fazio. Ribadiamo la benignità e il carattere leggero di questa influenza, che fino ad oggi ha fatto 11 morti su circa 400.000 casi stimati. Vorrei ricordare che l'anno scorso l'influenza stagionale ha fatto 8.000 morti a fronte di 4 milioni di casi. In arrivo però, nonostante le parole rassicuranti di Fazio, Savino, in arrivo comunque il vaccino per molti sportivi. Sì, esattamente. Si è deciso, per quanto riguarda l'ambito sportivo, assieme al presidente del CONI Petrucci e al sottosegretario allo sport Crini, di adottare tre provvedimenti. Il primo è la vaccinazione di tutti i 350 atleti che in febbraio parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Vancouver. Il secondo invece è l'emanazione di una circolare sulle norme igieniche da rispettare in palestre e centri sportivi. E infine si è deciso la costituzione di una ristretta commissione che monitorerà l'evolversi della situazione fino a primavera inoltrata. Da Roma è tutto. Grazie a Savino Gallo. Bimbi senza mamma e senza papà. Stiamo usando troppo? Era il tema del nostro sondaggio di oggi. Ecco come la pensate. Procreazione senza genitori, abbiamo letto sui giornali, o anche figli dalle cellule della pelle. La notizia che i ricercatori di Stanford sono riusciti a ricavare ovociti e spermaciti dalle staminali pone nuovi dubbi etici sui confini della ricerca. C'è chi, come Francesco D'Agostino, presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica, è convinto che ci siamo spinti troppo avanti. nel momento in cui abbiamo programmato la possibilità di nascite in provetta. E c'è chi alla ricerca non vuole porre confini, come Maurizio Mori, docente di bioetica all'Università di Torino. La scienza sta ampliando l'umano, abbiamo possibilità di nuove terapie contro l'infertilità, riusciremo a garantire un futuro migliore dal punto di vista genetico per i nostri figli. Stiamo osando troppo dunque? La maggioranza degli ascoltatori che ha votato su www.radio24.it e su www.ilsole24ore.com, il 61%, ha risposto di sì. Simone Spezia, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono 19 le famiglie che hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo preliminare in corso al Tribunale di Tivoli per i presunti abusi sessuali su 21 bambini della scuola Olga Rovere di Rignano Flaminio. L'udienza iniziata stamattina dovrà verificare la posizione delle tre ex maestre e di altre due persone. In arrivo nuove regole della Chiesa sulla cremazione. No dei vescovi alla dispersione delle ceneri. In Italia l'usanza non è così diffusa come nel resto di Europa, anche se in città come Milano la cremazione sta prendendo sempre più piede. Nel 1963 fu una bolla di Paolo VI a consentirla anche per i cattolici, spiegando che la pratica non contraddiceva la dottrina della risurrezione. Ora però i vescovi italiani si preparano a varare un regolamento aggiornato dei riti funebri, con nuove disposizioni in materia. Se ne è discusso all'ultimo consiglio permanente della CEI. Il dibattito ha mostrato un netto rifiuto nei confronti dell'usanza di spargere le ceneri sulla terra e sulle acque. No anche all'usanza di tenere in casa l'urna. Questo, secondo molti presuli, infatti significa una privatizzazione dell'antico rito di accompagnare il defunto al camposanto, un rito che è invece collettivo. Il nuovo codice sarà varato ad Assisi nel corso dell'Assemblea straordinaria dei Vescovi, che si terrà il 9 novembre. In Europa è la Gran Bretagna il paese in cui la cremazione è più praticata. Tre quarti dei sudditi di Sua Maestà la scelgono, contro il 27% dei francesi e il 10% degli italiani. Katia Caramelli, GR24. Il Sole 24 Ore. Il 29 ottobre del 1969 venivano collegati i primi due computer alla rete che poi sarebbe diventata internet. A 40 anni dalla nascita, la più grande rete mondiale sta per vivere una vera rivoluzione. Si partirà con gradualità dal 16 novembre e tutto sarà operativo dal prossimo anno. Gli indirizzi che identificano un sito internet, come ad esempio www.radio24.it, potranno essere scritti anche in caratteri diversi da quelli latini, come quelli dell'alfabeto arabo, coreano, giapponese, greco, indi e cirillico. La decisione arriva da Seul, dove sono riuniti in questi giorni i vertici dell'ICANN. L'organismo internazionale che governa la rete stima che circa la metà degli 1,6 miliardi di utenti di internet nel mondo utilizzi una lingua scritta in un alfabeto diverso dal nostro. In prima fila ci sono gli oltre 300 milioni di navigatori cinesi che potrebbero essere i primi ad utilizzare la novità. L'apertura ai nuovi alfabeti arriva a poche settimane dall'annuncio degli Stati Uniti di estendere il governo della rete alla comunità internazionale. Finora infatti l'ICANN dipendeva esclusivamente dal Dipartimento del Commercio americano, che dal 1988 ad oggi ne ha finanziato il funzionamento. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. 20 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030 nel settore delle energie rinnovabili, lo dice Christopher Flavin, presidente del World Watch Institute. Si tratta di una delle buone notizie che arrivano da Ecomondo, la fiera sui temi dell'ambiente e della tecnologia che si conclude domani a Rimini. Ricerca e sostegno alle imprese che innovano e città ecosostenibili sono i due temi su cui ruota quest'anno la fiera. Il direttore di Ecomondo, Simone Castelli, al microfono di Cristina Carpinelli. L'idea di fondo è quella di dare una vetrina a quelle aziende che stanno investendo soldi, know-how, ore uomo nella ricerca e sviluppo tecnologica. Sarà una cosa trasversale che potrà andare da un motore dell'auto a un polimero chimico completamente biodegradabile e sarà finalizzata appunto a presentare al mercato tutto ciò che in azienda ancora, diciamo, non ha un livello industriale. La seconda segnalazione avrei piacere di farla su la città sostenibile. Abbiamo, se ricordo bene, una ventina di case history di città nel mondo che si presentano qui da noi per presentare ciò che hanno fatto. Una è la nostra capitale Roma, Amburgo e Stoccolma. Quindi Roma è una delle città sostenibili insieme ad Ontario o altre città? Ci sono, ovviamente non è tutto il sistema città che viene presentato, ma come Stoccolma viene a presentare il quartiere a impatto zero, quindi non è tutta Stoccolma. Stoccolma. Sì, ma... come il caso di Londra, Settimo Torinese. Esattamente, esattamente. Roma viene a portare delle sue attività in ottica sostenibile. Torniamo allo sport, c'è anche Gianluigi Buffon nella lista dei 23 candidati al FIFA World Player 2009, il portiere della Juventus e della Nazionale è uno dei tre rappresentanti del campionato italiano, insieme all'interista Eto'o e dall'altro juventino Diego. Il vincitore sarà premiato il prossimo 21 dicembre. Ed è un momento difficile per la Roma, pochi risultati in campo e una situazione delicata dal punto di vista societario. L'assemblea di oggi di Italpetroli, la holding che controlla la Roma Calcio, potrebbe sancire la rottura definitiva tra la famiglia Sensi, azionista di maggioranza, ed Unicredit, che controlla il 49% della società e neanche creditore per 400 milioni. La presidente della Roma, Rossella Sensi, punterebbe a sostituire il rappresentante dell'istituto di credito nel CDA di Italpetroli, l'avvocato Roberto Cappelli, istituzionalizzando di fatto il conflitto con Piazza Cordusio. Unicredit, infatti, nelle ultime settimane ha iniziato un'offensiva nei confronti dei Sensi per rientrare dal debito, facendo partire decreti ingiuntivi su asset familiari minori come terreni e altre attività, e potrebbe passare presto all'assalto della Roma Calcio, il pezzo forte dei Sensi, che, come confermato anche ieri nell'assemblea degli azionisti, la famiglia non intende cedere, e lo ha dimostrato facendo saltare ogni sia pure embrionale trattativa. L'unico compratore ancora in corsa, l'imprenditore farmaceutico Angelini, rimane alla finestra in attesa che la Roma e Unicredit ritrovino la concordia e che si chiarisca soprattutto la questione stadio di proprietà che i Sensi vorrebbero costruire sull'Aurelia, ma che rischia di saltare senza l'appoggio di Unicredit. In più la squadra continua a perdere e ai margini della zona retrocessione, i tifosi contestano e Totti è ancora infortunato. Dalla giornata di oggi le prime risposte importanti. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.